collettivo femminista Mujeres Libres, che in città esiste da tanti anni, e tra le varie cose di cui ci occupiamo c'è sicuramente l'esistenza dei neofascisti e il contrasto appunto a queste forme di fascismo, sia in senso generale, magari in relazione ad altre componenti del movimento, sia in casi specifici. In questo caso c'è proprio un caso specifico, ovvero andiamo ad analizzare cosa Forza Nuova, partito di estrema destra, cosa pensa delle donne, in particolare dell'aborto. Abbiamo quindi scritto un opuscolo per mettere un po' insieme alcune notizie riguardanti appunto le loro proposte raccapriccianti. Come ovviamente molte sanno, siamo un collettivo che dedica molto spazio alla lotta contro l'obiezione di coscienza e quindi al libero accesso per l'introduzione volontaria di gravidanza per tutte le donne. Quindi ovviamente Forza Nuova si presenta come uno dei massimi nemici insieme a tutte le, diciamo, realtà pro-life e contro l'aborto. In questo opuscolo abbiamo appunto cercato di mettere insieme un po' di informazioni e per rendere semplicemente anche accessibili, un po' di controinformazione per conoscere che cosa si c'era dietro, a fianco a Forza Nuova più che dietro. Per esempio c'è una delle più importanti organizzazioni contro l'aborto, si chiama Pro Vita, che già, come ho detto tante volte, è un nome che sembra quasi bello, quasi neutro, e in realtà è un'organizzazione che mira a colpevolizzare le donne e a negare, diciamo, a mettere in discussione l'accesso appunto all'aborto, parlando di vita, come se aborto volesse dire morte per forza. Quindi analizziamo appunto i rapporti tra Pro Vita e Forza Nuova, che sono per far capire quelli che organizzano anche la marcia per la vita a maggio ogni anno a Roma, e poi cerchiamo di capire che cosa fa, cioè Forza Nuova proprio come partito, ovvero propone redditi a future madri, cioè propone dei soldi a madri ovviamente solo italiane, e soprattutto una delle cose più gravi che fa, una delle cose più, diciamo, particolari, è quello di mettere sempre in relazione migrazione con maternità e calo demografico. Sostanzialmente loro dicono: fate venire i migranti che fanno dei bimbi non italiani, nel frattempo le donne invece abortiscono e quindi non ci sono più italiani, c'è una sostituzione. È davvero raccapricciante come loro collegano questo fenomeno, perché ovviamente parte dal presupposto che le donne sono solo delle incubatrici per sfornare dei figli che devono difendere la razza italiana. Ma si può pensare che siano solo tutti dei maschi, degli uomini cattivissimi dentro Forza Nuova, ma in realtà hanno anche il dipartimento femminile. Siamo andati un po' a indagare e in realtà l'associazione Vita per On, che appunto dovrebbe occuparsi più di tematiche femminili, e con femminili ovviamente intendiamo famiglia tradizionale, ecco, non esigenze specifiche di donne, perché ovviamente ricordiamo donna uguale incubatrice, moglie, madre. Queste associazioni in realtà molte volte non esistono, cioè loro sono molto bravi a fare della propaganda sul web, infatti nell'opuscolo ne parliamo anche un po', cercano di raccontarsela che sono tante e tante, ma in realtà molte volte Vita per On non esiste, esiste solo in minima parte. Certo è che ha dato da fare, per esempio nella bassa, con tutta la questione no gender, perché appoggiava appunto altre, diciamo, associazioni, gruppi cattofascisti, dove ovviamente loro trovano terreno fertile. E infatti all'iniziativa XM saremo proprio con la rete Stop Cattofascisti, che si è occupato delle esperienze di contrasto nella bassa. Sulla questione aborto, loro portano avanti anche una campagna, diciamo, grafica, di una comunicazione grafica molto molto dura, molto crudele, molto colpevolizzante, e accompagnato tutto ovviamente a un forte tasso di omofobia e di razzismo. E inoltre le donne, quando non sono appunto donne che devono sfornare figli, sono comunque la moglie e la madre da difendere dal possibile stupratore nero, ovviamente. Quindi ecco, c'è una fortissima oggettivizzazione del corpo femminile, ma proprio è talmente ovvia, talmente misogina, che a volte non c'è neanche bisogno di spiegarla, perché infatti ricordiamo che Forza Nuova rispetto a Casa Pound, diciamo, è molto più esplicita, cioè non si nasconde, non ha molto vergogna. Invece quando arriverà il momento, diciamo, di fare un opuscolo su Casa Pound, avremo molta più difficoltà, perché Casa Pound si presenta come una formazione laica, ma in realtà anche loro hanno fatto per esempio una proposta che si chiama Tempo di essere madri, che riguarda appunto un reddito a donne che fanno figli, ovviamente italiane, bianche.